Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Tuffo di terra arrivò a questo punto alle spalle di Capitan Sciaralla, seguito da una sghignazzata. Il capitano diede un balzo sulla sella e si voltò furente. Non vide nessuno. Da una siepe sopra l'arginello venne fuori però questa strofetta, declamata con tono derisorio, lento lento. Sciarallino, sciarallino, dove vai con tanta boria? Sul ventoso tuo ronzino? Sei scappato dalla storia? Sciarallino, sciarallino! Capitan Sciaralla riconobbe dalla voce Marco Preola, il figlio scapestrato del segretario del principe, e sentì rimescolarsi tutto il sangue. Ma subito dopo il Preola gli apparve in tale stato che le ciglia aggrottate gli balzarono fino al berretto e la bocca serrata dall'ira gli si aprì dallo stupore. Non pareva più un uomo colui, salvo il santo battesimo. Un porco pareva, fuori dal brago, ritto in piedi, cretaceo e arruffato. Con le gambe aperte, buttato indietro sulle reni, a modo degli ubriachi, il Preola seguitò dallassù a declamare con ampi e stracchi gesti. «Oppur vai, Don Ghisciottino, all'assalto di un molino, o a caccia di lumache, t'avventure col mattino, così rosso nelle brache, del giubbon così turchino, sciarallino, sciarallino!» «Quanto sei caro!» sbuffò Sciaralla, allungando una mano alla terga, ove la mota gli si era appiastrata. Marco Preola si calò giù sul sedere, dall'arginello lubrico di fango, e gli si accostò. «Caro, no!» disse. «Mi vendo a buon mercato! Ti piace la poesia? Bella, eh? E seguita, sai, la stamperò sull'Empedocle, domenica ventura!» Capitan Sciaralla stette ancora un pezzo a guardarlo, col volto contratto ora in una smorfia tra lo schifo e la compassione. Sapeva che colui andava soggetto ad attacchi di epilessia, che spesso vagava di notte come un cane randagio. Spariva per 2 o 3 giorni finché non lo ritrovavano come una bestia morta, con la faccia a terra e la bava alla bocca, su, al colmo delle forche o per le campagne. Gli vide la faccia gonfia, deturpata da una livida cicatrice sulla gota destra, dall'occhio alla bocca, con pochi peli ispidi biondicci sul labbro e sul mento. Gli guardò il vecchio cappelluccio stinto e roccioso che non arrivava a nascondergli la laide calvizie precoce. Notò che calvo era anche di ciglia, ma non poté sostenere lo sguardo di quegli occhi chiari, verdastri, impudenti, in cui tutti i vizi pareva vermicassero. Cacciato dalla scuola militare di Modena, il Preola era stato a Roma circa un anno nella redazione di un giornalucolo di ricattatori. Scontata una condanna di 8 mesi di carcere, buttandosi giù da un ponte nel Tevere. Salvato per miracolo, era stato rimpatriato dalla questura e ora viveva alle spalle del padre a Girgenti. «Che hai fatto?» gli domandò Sciaralla. Il Preola si guardò l'abito cretoso addosso e con un ghigno frigido rispose: «Niente, un piccolo e improvviso attacco di malattia». Con le mani aggiunse un gesto per significare che s'era rivoltolato per terra. Poi, all'improvviso, cambiando aria e tono, gli ghermì un braccio e gli gridò: «Quale lettera? So che ce l'hai!» «Ma sei matto!» esclamò Sciaralla con un soprassalto, tirandosi indietro. Il Preola scoppiò a ridere sguaiatamente. «Mi serve soltanto per annusarla e dai cavola fuori, voglio sentire se state confetti». «Ada male, ma non sai che il tuo padrone sposa?» Sciaralla lo guardò stordito. «Il principe?» «Ah, sua eccellenza, non ci credi? Scommetto che la lettera parla di questo. Il principe annunzia le prossime nozze al fratello. Non hai visto monsignor Montoro? È lui il paraninfo». «Davvero, Monsignor Montoro in quegli ultimi giorni si era fatto vedere molto più di frequente a Colimbetra. Che fosse vero, Sciaralla si sforzò di impedire che quella notizia incredibile di un avvenimento così inopinato gli accendesse in un lampo la visione di splendide feste, di una gaia animazione nuova in quel silenzioso, austero ritiro, la speranza di regali per la bella comparsa che avrebbe fatto coi suoi uomini e il servizio inappuntabile che lo avrebbe impegnato. Ma il principe, possibile, così serio e alla sua età, e poi come prestar fede al prevola? Cercando di nascondere la meraviglia e la curiosità con un sorriso di diffidenza, gli domandò: «E chi sposa?» «Se mi dai la lettera te lo dico», rispose quello. «Domani, va là, ho capito!» E Sciaralla si spinse col busto per cacciar la giumenta. «Aspetta!» esclamò il prevola, trattenendo Titina per la coda. «Non importa assai delle nozze e che tu non ci creda!» «Questo mi premerebbe più di sapere. Forse il principe parla al fratello delle elezioni, della candidatura del nipote. Non sai neanche questo? Non sai che Roberto Auriti, il dodicenne eroe, si presenta deputato?» «So un corno io, ma chi si invece?» fece Sciaralla. «Ma non l'abbiamo l'onorevole Fazzello per deputato?» «Lo dico io che siete fuori dalla storia, voi altri a Colimbetra», ghignò il prevola. «Abbiamo le elezioni generali e Fazzello non si presenta per la morte del figliuolo». «Del figliuolo? Ma si è scapolo?» Il prevola tornò a ridere sguaiatamente. «E che uno scapolo, uomo di chiesa per giunta, non può avere figliuoli?» «Bestione, avremo Lauriti sostenuto dal governo contro l'avvocato Capolino. Fiera lotta, singolar tenzone, dammi la lettera». Sciaralla diede una spronata a Titina e con un sfaglio si liberò del prevola. Questi allora gli tirò dietro una o due sassate, stava per tirargli la terza, quando dalla svoltata si levò una voce rabbiosa. «E corpo di ma che tira?» E un'altra voce, rivolta evidentemente a Sciaralla che fuggiva, diceva: «Vergognate, fandoccio, ignorante, buffone!» E dalla svoltata apparvero sotto un ombrellaccio verde sforacchiato, stanchi e inzaccherati, i due inseparabili Luca Lizio e Nocio Pigna, o, come tutti da un pezzo li chiamavano, Propaganda e Compagnia. Quegli, uno spilungone ispido e scialbo, con un paio di lenti che gli scivolavano di traverso sul naso, stretto nelle spalle per il freddo e col bavero della giacchettina d'estate tirato su. Questi, pozzo, deforme, dal groppone sbilenco, con un braccio penzolante fin quasi a terra e l'altro puntato a leva sul ginocchio per reggersi alla meglio. Erano i due rivoluzionari del paese. Capitan Sciaralla credeva torto che nessuno si muovesse a Girgenti. Si muovevano loro, Lizio e Pigna. È vero che l'uno e l'altro, quella mattina, così bagnati e intirizziti, sotto quell'ombrello sforacchiato, non davano a vedere che potessero essere molto ottenibili le loro imprese rivoluzionarie. Nessuno poteva vederlo meglio di Marco Preola, il quale, avendo già da un pezzo abbandonato al caso la propria vita, tenuta per niente da lui stesso più che dagli altri, e senza più né affetti né fede in nulla, sciolta non pur d'ogni regola, ma anche d'ogni abitudine, e gettata in preda a ogni capriccio improvviso e violento, tutto vedeva buffo e vano, e tutto e tutti derideva, sfogando in questa derisione le scomposte energie non comuni dell'animo esagerato. Sapeva che, tre giorni addietro, quei due, Lizio e Pigna, si erano recati alla marina di Porto Empedocle a catechizzare i facchini addetti all'imbarco dello zolfo, gli scaricatori, gli stivatori, i marinai delle spigonare, i carrettieri e i pescatori per raccoglierli in fascio. Vedendoli di ritorno a quell'ora, in quello stato, arricciò il naso, si fermò in mezzo allo stradone ad aspettarli per accompagnarsi con loro fino a Girgenti. Quando gli furono vicini, aprì le braccia e lo chiamò con un vezzeggiativo dispettosamente bonario e gli disse ammiccando: «Mondaccio laido è questo, d'ingrati, marinai, piedi piatti, e chiude il paracqua, Dio ci manda l'acqua e non te ne vuoi profittare? Laviamoci il viseno così. Ascansati, gli gridò il Pigna. Ma che ti cerca? Che te vuole? Chi ti ha dato mai confidenza? Il Preola, senza scomporsi, gli rispose. Quando mi piace arrabbiato, creda madre, caro mio. Mi scansi e poi ti lagni dagli altri che sono ingrati. Ci vuole una faccia, brontolò il Pigna, rivolto al Lizio. Ma questi andava chiuso in sé, non curante e accigliato. Diede una spallata come per dire che non voleva essere frastornato dai suoi pensieri e avanti. Il Preola li seguì un pezzo in silenzio, un po' discosto, guardando ora l'uno ora l'altro. Aveva nelle viscere la smania di fare qualche cosa quella mattina, ma non sapeva quale. Si sarebbe messo a urlare come un lupo, ma per non urlare apriva la bocca, si cacciava una mano sui denti e tirava fin quasi a slogarsi la mascella. Poi sospirava o si scrollava tutto in un fremito animalesco. Poteva solo sfogarsi con quei due, ma a stuzzicare il Lizio che gusto c'era. Disperato come lui e per giunta con la testa piena di fumo. Due disgrazie, una sopra l'altra, il suicidio del padre, bravo avvocato ma di cervello balzano, poi quello del fratello, gli avevano cattivato in paese una certa simpatia, mista di costernazione e anche un certo rispetto. Studiava molto e parlava poco, anzi, non parlava quasi mai, e la ragione c'era, gli mancava quasi mezzo alfabeto. Di lui si poteva ridere soltanto per questo, che aveva trovato nel Pigna il suo organetto, e organetto e suonatore ogni volta ai comizi comparivano insieme. Se il Pigna stonava, egli lo rimetteva in tono, serio serio, tirandolo per la manica. Rivoluzione sociale, fratellanza dei popoli, rivendicazione dei diritti degli oppressi. Parole grandi, insomma, e forse perciò distratto s'era attaccato intanto a un tozzo di pane, faticato da altri per lui. Faceva benone, solo che con questo popò di freddo. Una caffettierina, volesse Dio, invocò con improvviso scatto il Preola, levando le braccia. Tre pezzetti di zucchero, un vasetto di panna e quattro fettine di pane abbruscato. Ah, animucce sante del purgatorio. Luca Lizio si voltò brusco a guatarlo. Proprio una tazzina di caffè, pensava in quel momento, così accigliato. E la vedeva, e se ne inebriava quasi in sogno, aspirandone il fumante aroma. E stringeva in tasca, nel desiderio che lo struggeva, il pugno intirizzito. Partito a buio e sconfitto, da Porto Empedocle, sentiva un freddo da morire. Non gli pareva l'ora di arrivare. Avvilito da quel bisogno meschino, si vedeva misero, degno di conforto, di un conforto che sapeva di non poter trovare in nessuno. Gocciolavano anche a lui per il freddo la punta del naso e gli occhi miopi dietro le lenti. Si era ristretto in sé, si era sentito tutto dolere, doler le tempie schiacciate, le aguzze sporgenze delle scapole su cui la stoffa della giacchetta d'estate aveva preso il lustro, e i polsi scoperti delle maniche troppo corte e i piedi bagnati entro le scarpe rotte. E tutto ora gli pareva un di più. Una soperchieria crudele. Ogni nuova pettata di quello stradone divenuto una fiumara di creta. La cruda luce dell'alba che, nonostante la cupezza di quelle nuvole, si rifletteva sulla motriglia e lo abbagliava. Ma soprattutto la compagnia di quel Cristo, da capo a piedi imbrattato di fango. Fango fuori, fango dentro, che stuzzicava il Pigna a parlare. Avvezzo ormai da anni a stare zitto, provava uno stordimento, a man mano più confuso, per quel suo silenzio che, all'insaputa di tutti, si nutriva e s'accresceva dentro di lui di certe stravaganti impressioni, che non avrebbe potuto esprimere, neppure a se stesso, se non a costo di togliere ogni credito e ogni fiducia all'opera sua. Marco Preola, intanto, seguitava a dire quasi tra sé: «Io che sono io, un vagabondo! Mi merito questo e altro, ma vedete, Domine Dio, che tempo fa, quando si trovano in cammino per una santa missione due poveri umanitari che una turba irriverente ha cacciato via di notte a Nerbate!» Il Pigna accennò a fermarsi, fremente. Ma il compagno, Luca Lizio, lo tirò via con uno strappo alla manica e un grugnito rabbioso. «Nerbate, ma bada, sai!» masticò tra i denti. «Gliele darei io, le Nerbate!» «E da te me le piglierei, nocere!» s'affrettò a dirgli il Preola con un inchino. «Perché tu non sembri, ma sei un eroe! Puzzi, ma sei un eroe! E quando te lo dico io ci puoi credere, il popolo non te può capire, non può capire la tua idea, perché per disgrazia l'idea non ha occhi, non ha gambe, non ha bocca, parla e si muove per bocca e con le gambe degli uomini. Se dici, poniamo, popolo, l'umanità cammina, ti insegnerò io a camminare. Oh, sono capace di guardarti le cianche come le botti. Ma guarda un po', chi vuole insegnarci a camminare?» «Pezze d'asino», mormorò Luca Lizio, non potendo più tenersi. «E non si chiama ragionare coi piedi, questo. Io, il popolo», rimbeccò il Preola. «Il popolo, per tua norma», ribatté il Pigna, roteando gli occhi da matto. «Non lo nominare, il popolo. Non sei degno neanche di nominarlo, tu, il popolo. Troppe cose ha capito il popolo, caro mio, per tua norma. E prima di tutto questa, che i tuoi patrioti lo ingannarono.» «I miei?» fece il Preola, ridendo. «I tuoi? Quelli che lo spinsero a fare la rivoluzione del 60, promettendo l'età dell'oro. I patrioti e i preti. Noi, caro mio, per tua norma, gli dimostriamo 4 e 4 8 con le prove alla mano che... Ma lo capisci? Per virtù, e dico bene, della sua stessa forza, non per concessione di altri. Esso può, se vuole, migliorare le sue condizioni.» «Meglio sarebbe per forza della sua virtù», osservò placido il Preola. Il Pigna lo guardò stordito, ma subito quello s'affrettò a tranquillarlo. «Niente, non c'è badare. Gioco di parole. Per virtù della sua stessa forza», ribatté a bassa voce, ma non più ben sicuro, il Pigna, rivolgendosi a Lizio per consigliarsi con gli occhi di lui se aveva detto bene, e seguitò un po' sconcertato: «Migliorare, sì signore, questo iniquo ordinamento economico, dove uomini vivono, cioè no, oppure sì, uomini vivono senza lavorare, e uomini, pur lavorando, non vivono. Capisci? Noi diciamo al popolo: tu sei tutto, tu puoi tutto, unisciti e detta la tua legge e il tuo diritto.» «Bravissimo!» esclamò il Preola. «Permette che parli io adesso.» «La tua legge e il tuo diritto», ripeté ancora una volta il Pigna, furioso. «Parla!» «E non t'offendi?» «Non m'offendo, parla!» «Fosti sì o no sagrestano fino a poco tempo fa?» Propaganda si voltò di nuovo a guardarlo stordito. «E che c'è da questo?» E il Preola placido: «Hai promesso di non offenderti. Rispondi.» «Sagrestano, sì signore», riconobbe il Pigna coraggiosamente. «Ebbene, che vuoi dire con ciò? Che ho cambiato colore?» «No, che colore, lascia stare. Al massimo casacca. Ho imparato a conoscere i preti, ecco tutto.» «Ui, a far figliuoli», raffibbiò il Preola. 7 figlie femmine, tutte dei file. Lo puoi negare?» Nocio Pigna si fermò per la terza volta a guardarlo. Aveva perduto il posto alla chiesa perché una delle figliuole, la maggiore, e un certo canonico Landolina, col patto di non toccare certe d'aste, lo prevenne, abbassando gli occhi. «No, no, no, no, no, no, no», disse precipitosamente il Preola, con una mano al petto. «Sente, nocio, io sono a universale giudizio dei savi quel che si dice un varabotto, va bene? Sono stato 8 mesi dentro, fai forte. E vedi qua», soggiunse, indicando la cicatrice sulla gota, «quando mi buttai a fiume, come dicono a Roma. Ma figurate dunque se certe cose mi possono fare impressione. Sai anzi che mi fa impressione? Che tu, a quella disgraziata...» «Non tocchiamo, t'ho detto, certe tasti!» «Caro mio», sospirò il Preola, socchiudendo gli occhi, «ti faccio una confidenza. Quelli che combatto sono i soli per cui abbia una certa stima. ma questi tali, per le mie, diciamo, disgrazie, non vogliono averne di me e non mi vorrebbero lasciar vivere. E qui sbagliano. Vivere debbo e per vivere sto coi preti. Gli uomini non perdonano. Dio invece, a detta dei preti, ma dà un pezzo perdonato. E con questa scusa si servono di me. Guarda, guarda che piazza, nocio, aggiunse, buttandosi indietro il cappelluccio per mostrare la fronte. E ce n'ho dentro, sai. Se le cose mi fossero andate per il loro verso, ma basta, lasciamo stare. Io, voi, tutto, ma guardate. Fango. Ci siamo tutti e tre, coi piedi affondati. Ebbene, parliamoci chiaro in nome di Dio. Diciamoci le cose come sono, senza vestirle di frasi. Nude. Pigliamoci questo piacere. Io sono un borco, sì. Ma tu? Che sei, nocere? Che lavoro è il tuo, me lo dici? Passati una mano sulla coscienza. Tu non lavori. Io? Esclamò il Pigna, stupito più che offeso dall'ingiustizia, allungando il braccio e ripiegandolo sul petto con l'indice teso. Lavori per la causa? È una frase, ribatté il preola, pronto. T'ho pregato, la verità nuda, e poi te la vesti a casa come vuoi, per quietarti la coscienza. Lavoravi e ti cacciarono via dalla chiesa, poi da un banco di lotto. Calogna, lo so, ma pure se davvero ti fossi messo in tasca i baiocchi dei gonzi che venivano a giocare al botteghino, credi che per me avresti fatto male? Benone avresti fatto. Ma ora che fai? Lavorano le tue figliole. E tu mangi e predichi. E qua quest'altro San Luca evangelista, come lo chiamate? Amore libero. Va bene, è una frase. Il fatto è che si è messo con un'altra delle tue figliole e... Luca Lizio, a questo punto livido e scontraffatto, si avventò con le braccia protese alla gola del preola. Ma questi si trasse indietro, ridendo, finché poté ghermirgli i polsi e respingerlo senza furia. «Ma va!» gli gridò con un lustro di gioia maligna negli occhi e nei denti. «Io sto dicendo la verità!» «Lasciamolo perdere!» si interpose il Pigna a sua volta, trattenendo Luca Lizio e arrabbiandosi. «Non vedi che fa professione di mosca canina?» «E canina canina, eh già! Gli ho punzecchiato la nudità!» Il Pigna finse di non udire, scrollò più volte il capo e brontolò tra sé. «Questo è un paese di carogne!» Va ad Aragona, due passi da Circendi, va a Favara, a Grotte, a Casteltermini, a Campobello, paesi di contadini e solfarai, poveri analfabeti. 4.000 soltanto a Casteltermini. Ci sono stato la settimana scorsa, ho assistito all'inaugurazione del fascio. Ho lumino acceso davanti alla Madonna? Domandò il preolo. Altro è Dio, altro il prete, imbecille, rispose alternamente il Pigna. E le trombe che suonano la fanfara reale. Disciplina, disciplina, esclamò il Pigna. Fanno bene, bisognava vederli. Tutti pronti e seri. 4.000 combatti, parevano la terra stessa, la terra viva, capisci? Che si muove e pensa. 8.000 occhi che sanno e te guardano. 8.000 braccia. E il cuore mi si voltava in vetto pensando che soltanto da noi, qua a Girgenti, capoluogo, e a Portembedocle, paese de mare, aperto al commercio, niente, niente, non si può fa niente. Come i bruti, peggio. Ma sai come vivono giù, a Portembedocle? Come si fa ancora l'imbarco dello zolfo? Lo sai? Marco Preola era stanco. Crollò il capo e mormorò. Porco Embedocle.